19:03. Trasmettiamo Proxibar. Proxibar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxibar, buonasera a Daniela Apollonio. Buonasera a tutti, ciao Antonio. Dopo una settimana eccoci di nuovo qui. Senti, ma l'hai risentita la prima puntata? Sì, l'ho dovuta risentire per forza per scoprire quanti errori, quante papere, i volumi. Sì, vabbè, come dice il nostro direttore artistico, siamo ancora in fase di test, stiamo sistemando le cose, vedrete che andrà sempre meglio. E oggi di che cosa parliamo, Daniela? Oggi lo chiedi a me, lo sai benissimo di cosa parliamo, su. Ok, abbiamo fatto anche un preview la settimana scorsa, parliamo del controverso rapporto tra la stampa tradizionale, i cosiddetti mainstream media, e internet e la stampa, il mondo online, diciamo così. Ne parleremo con degli esperti in studio che presenteremo più avanti, poi avremo le chicche, come al solito, avremo la Guru Meditation. Guru Meditation, avremo il Guru, un Guru non si nega mai a nessuno. Ovviamente no. E insomma, c'è abbastanza carne al fuoco, quindi forse è meglio cominciare subito perché non vorrei bruciare i minuti. Assolutamente no, abbiamo pochissimo tempo. Shock con un bambino down, un'insegnante accusata di molestie sessuali. Cosa sta succedendo? Il sito Indimedia è stato sequestrato ieri per aver messo in rete delle immagini giudicate irriguardose nei confronti di Papa Benedetto XVI. Ne parliamo questa mattina. Filmare con la scena di violenze e soprusi consumati ai danni di un compagno più fragile o presunto tale, per l'Italia è forse una novità, una nuova inquietante frontiera del bullismo. Ma nel Regno Unito il fenomeno è diffuso e comunque studiato da tempo. Un adolescente su 5 si dichiara vittima del bullismo digitale. Uno su 5 è minacciato o ridicolizzato attraverso fotografie. Sono stati spesso in passato conflitti e tensioni tra la categoria giornalistica, diciamo così, rappresentata dall'ordine, dal sindacato, e chi fa giornalismo su internet in maniera più improvvisata, diciamo così, o comunque senza inquadramenti. Siamo tutti affascinati e plagiati da questa esplosione tecnologica, no? Ce ne compriamo, io no di sicuro, ma comunque ce ne compriamo sempre di più, eccetera. E poi si paga il costo di questa follia, di questi innamoramenti. Insomma, noi abbiamo come giornalisti dei diritti certamente, ma anche dei doveri. Penso che pubblicare senza alcun giudizio critico, senza alcun intervento critico del giornalista, della redazione, dei messaggi che vengono dall'esterno non sia il top della valorizzazione del ruolo, della funzione, della professione giornalistica. Stiamo citando quello che ha detto il ministro della comunicazione Gentiloni proprio a questo proposito. Ha detto: il problema della tutela dei minori non riguarda soltanto la TV ma anche il mondo dei new media, è necessario aggiornare le regole. La donna, l'insegnante, è stata sospesa, si procede anche per radiazioni nei suoi confronti, è stata ascoltata oggi e ha raccontato di essere caduta in una trappola, ma sono molto pesanti le accuse nei suoi confronti. Interattiva per la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, ma anche direttore del Master Knowledge.com presso la stessa università, nonché blogger. Attivissimo, accanitissimo blogger. Professore Epifani. Buongiorno a tutti, buongiorno Daniela, buongiorno Antonio, vi ringrazio ovviamente per avermi invitato. Beh, è veramente un onore per noi. Io vorrei innanzitutto chiederle, insomma, leggendo la stampa tradizionale sembrerebbe che internet sia una sorta di grande satana che tira fuori i peggiori istinti veramente dagli esseri umani. Si parla di bullismo digitale, del video della professoressa palpeggiata in classe, la pedopornografia, eccetera. Però sorge un po' il dubbio che, insomma, questo accade perché la stampa reagisce al riflesso condizionato secondo cui solo le cattive notizie sono notizie vere, come accade poi anche quando non si parla di internet, oppure perché l'editoria tradizionale, secondo lei, è in concorrenza con l'editoria online e quindi ha tutto l'interesse in qualche modo a screditarla? Beh, la domanda non ha una semplice risposta, ma soprattutto probabilmente non ha una sola risposta. Nel senso che senz'altro è vero che è molto più facile parlare di cattive notizie, perché tutto sommato le buone notizie non interessano quasi a nessuno, ma è altrettanto vero che parlare male di internet consente alla stampa di esorcizzare un fenomeno che senz'altro la spaventa. Mi viene in mente che la nostra stampa probabilmente non è tanto avanzata da rendersi conto che deve aver paura di internet. Ecco, abbiamo in linea anche un altro illustre ospite, un altro accademico, il professor Antonio Sofi, che è docente di giornalismo e nuovi media all'Università di Firenze. Anche lui è un blogger, corretto? Professore, mi sente? Non riusciamo a sentire il professore. Va bene, intanto facciamo un'altra domanda al professor Epifani, poi vediamo se riusciamo a ristabilire il contatto con il professor Sofi. No, io volevo... Perché secondo lei, professore, ritiene che i giornali ancora non sappiano di essere in serio pericolo? Perché la nostra stampa, la stampa italiana in particolare, non ha quel livello di conoscenza del fenomeno che le consentirebbe di rendersi conto che il mondo sta cambiando. E allora perché è sufficiente guardare quello che sta succedendo negli Stati Uniti, a come cambiano le redazioni negli Stati Uniti e come invece sono immobili le redazioni italiane rispetto al fenomeno internet. E allora perché ce l'hanno tanto con internet? Perché da è sempre, molto... Sì, dal 98-99. Dal 98-99. Io a quel tempo scrivevo, come scrivo ancora oggi episodicamente, sulla stampa. Al tempo scrivevo un po' più frequentemente di oggi e avevo una rubrica che sostanzialmente si occupava di parlare della stampa che parlava di internet e la riempivo ogni mese una pagina. Proprio perché la stampa da sempre parla male di internet. Parla male di internet perché è molto più semplice vedere cattiva la macchina che non vedere cattive le persone che la usano. Vi racconto una cosa. Nel 1800 in Inghilterra, con l'introduzione dell'automobile, il sindacato, diciamo così, dei guidatori di carrozza si ribellò e ci fu un editto per il quale le automobili dovevano essere precedute da un guidatore di carrozza a piedi che urlasse "sta arrivando un'automobile". Ammettiamo anche che quest'opera di distruzione continuativa del web a mezzo stampa avvenga anche in buona fede, cioè, ammettiamolo, non voglio dire per assurdo, però ammettiamolo. In questo caso potremmo anche dire che la stampa assolve al suo dovere di ammonire i navigatori che le notizie che si trovano in rete non sono verificate, sono pubblicate al di fuori di qualsiasi codice etico, possono rientrare nel contesto di campagne propagandistiche con precisi interessi politici, economici. Però quanto è credibile questo ammonimento da parte della nostra stampa? Questa è una bella domanda. La nostra stampa è la stampa che di solito è prona di fronte al potere o al poterino del potentucolo di turno. Di conseguenza non ha, a mio giudizio, quella levatura morale che le consenta di ergersi a tutela dell'informazione e a tutela di un pubblico che, a mio giudizio, è sempre un po' più intelligente di quanto non si voglia pensare. Perché le persone che leggono, le persone che navigano su internet, quelle che vogliono leggere, vogliono navigare, sono molto meno indifese di quanto non sembri, no? Questo è vero, però i miei dubbi da chi fa internet sono quelli della quantità infinita di informazioni, la difficoltà di trovare l'informazione giusta da quella sbagliata, perché c'è. No, questo è verissimo, tanto è vero quanto è vero che esistono strumenti su internet che si ergono a fonti non essendo fonti attendibili. Mi trovo spessissimo studenti all'università che mi citano Wikipedia come fonte attendibile. Wikipedia non può essere fonte attendibile se non sappiamo chi e come scrive i lemmi. Questo succede sempre. Certo, bisogna accedere ad internet. Internet non è uno strumento di informazione, internet è una piazza. Nella piazza ci sono tante persone e tante voci. La credibilità non sta nella piazza, sta nelle voci che parlano. Questo ci porta a ragionare del fatto che negli Stati Uniti ci sono aziende editoriali che stanno ridisegnando completamente le strutture redazionali, stanno ridisegnandole in maniera tale che i canali di comunicazione siano assolutamente allineati e omogenei. Non c'è più la redazione cartacea e la redazione online, c'è la redazione che si occupa di quel tema e successivamente poi viene trattato sull'online, sul cartaceo, in televisione e via dicendo. C'è un processo di ibridazione dei diversi media, c'è quella che viene definita dai sociologi la rimediazione. attenzione però a non contare troppo sulla tecnologia e non fare investimenti a senso unico, perché io ricordo l'ebook, questo fenomeno. Tutti i libri sarebbero dovuti uscire in ebook, quindi niente l'ebook più rappresenta, l'ebook rappresenta probabilmente una visione distorta della tecnologia, nel senso che il fatto che esistano le barche a motore non vuol dire automaticamente che non sia bello andare in barca a vela. Semplicemente un altro dei tanti ambiti di discussione in cui alla fine la generazione precedente non ha i titoli, non ha le conoscenze per prendere le decisioni che impatteranno sulla generazione successiva. Bah, io non sono così convinto che sia soltanto una questione di competenze, quanto piuttosto che si tratti di un vizio vecchio quanto l'uomo di attribuire alla tecnologia problemi che della tecnologia non sono. Mi riferisco ad esempio al fatto che nelle interviste, nei brani, negli spezzoni che abbiamo sentito prima, si parlava del fatto che il video del ragazzo Down picchiato in classe fosse finito su internet, del fatto che la foto, che il video della docente palpeggiata fosse finito su internet. Ma io mi chiedo, il vero problema sta nel fatto che queste cose sono finite su internet o nel fatto che sono successe? Eh beh sì, effettivamente queste cose sono sempre successe, magari non avevano la stessa visibilità, però insomma noi che in qualche modo forse abbiamo anche capito che il problema non è internet, però a questo punto vorrei chiedere se c'è veramente qualcosa della rete internet che la spaventa, che non è presente nella vita reale. Ma quello che può spaventare di internet è forse anche la sua più grande opportunità. La libertà è una cosa pericolosa, internet è uno strumento di libertà e in questo senso la libertà rischia di spaventare. Per questo sappiamo che ovunque, sia in Cina che in molti altri paesi, stanno iniziando a chiudere Google. Sì, sono di questi giorni le notizie per le quali in moltissimi paesi, da Google a YouTube, si sta chiudendo l'accesso. Quello che non si dice molto è, per esempio, che in Cina si sta costruendo una rete parallela ad internet. E questa è una notizia di una rilevanza enorme, perché 1 miliardo a tendere di persone collegate di fatto hanno un peso, se gestite, pari a quello di tutto il resto del mondo. E una rete gestita con una gestione di tipo autarchico o comunque centralistico ha una potenza di impatto che è inimmaginabile, forse superiore a quella di internet per come la conosciamo noi, è in grado di ridisegnare internet. E ancora una volta torniamo sul tema della libertà: su quali principi? Benissimo, abbiamo diciamo introdotto abbastanza carne a fuoco. Sì, abbiamo parlato abbastanza a fondo di questo argomento spinoso. Dopo la pausa musicale parleremo di citizen journalism, cioè di questo fenomeno parallelo dei giornalisti indipendenti che, approfittando delle nuove tecnologie, mettono a disposizione tutta una serie di informazioni cui normalmente non avremmo accesso. Lo facciamo dopo un po' di musica e dopo aver anche sentito un'altra clip delle nostre, diciamo, a sorpresa. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. and sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. In all New York, if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New convoy were attacked today in Hai al-Jama Street. The whole area were locked. No one can come in and either no one can come out right now. And the U.S. military right now searching for suspected individuals. And those Apaches that you're seeing right now is flying on a very low altitude trying to locate those insurgents who attacked this convoy. Those Apaches usually flies on a regular time in Baghdad and in regular patrols. But what really happens, people get really disturbed by those helicopters, and especially when they're flying in a low altitude. Like if there were a little babies or some sick person, he won't be able to get some sleep if those Apaches or those aircrafts keep on flying. Allora, Daniela, lo sai che cos'è questo che abbiamo sentito? No, illuminaci. Va bene, no, questo è un podcast. Tu sai quanto a me piacciono i podcast, sia farli che ascoltarli. Questo in realtà è un video podcast che si chiama Alive in Baghdad ed è, secondo me, un brillante esempio di citizen journalism, cioè di giornalismo indipendente che utilizza, diciamo, le nuove tecnologie per arrivare là dove prima si poteva arrivare, non lo so, col ciclostile, non so in che altri modi. Però, insomma, questo signore si trova in campo di battaglia, si trova in Iraq, ci racconta tutto quello che succede, le pattuglie degli Apache che non fanno dormire i bambini, cioè parla praticamente dell'impatto reale della guerra sulla popolazione, parla del lato della guerra in Iraq, di cui, insomma, sui giornali non si parla molto facilmente, anche perché sappiamo che i giornalisti sono, come si dice, spesso embedded. Quei pochi che non lo sono finiscono, chissà per quali motivi, quasi sempre nelle mani poco rassicuranti. Insomma, questo è un esempio abbastanza interessante di come internet possa fornire informazioni attraverso canali diversi. Secondo lei, professore, il citizen journalism come cambierà il futuro dell'informazione in Italia e nel mondo. Ritengo che lo cambierà radicalmente, anche perché l'elemento forse più interessante del citizen journalism è il processo di disintermediazione che comporta, perché il vero potere del citizen journalism non è tanto quello di consentire all'organo di informazione di arrivare nelle strade di Baghdad, quanto piuttosto quello di consentire a un militare di fare il giornalista. E questa è la grande rivoluzione dell'informazione, la grande rivoluzione contro la quale i giornalisti, soprattutto i giornalisti italiani, abbarbicati nei loro ordini professionali, si battono. Perché nel momento in cui qualsiasi cittadino può fare informazione, i giornalisti che ruolo assumono? Una volta saremmo forse inorriditi rispetto alla prospettiva di avere un militare che ci fa il suo giornale privato dal teatro di guerra. Oggi invece forse è quasi più una garanzia lui, così come in prospettiva lo può essere il civile che si trova lì a subire la guerra, così come lo può essere qualsiasi soggetto che... È una garanzia con molti rischi. Nel senso che questa grande libertà della quale vi dicevo prima sono spaventato, è la grande libertà che in qualche modo ci sta regalando non tanto internet quanto il nuovo contesto dell'informazione, una libertà nella quale il ruolo del giornalista intelligente, diventa ancora più centrale, perché è il giornalista, quello che fa per professione il giornalista e che conosce la professione del giornalismo, quello con la G maiuscola, che ha il ruolo in qualche modo di comprendere i flussi informativi e di commentarli. In qualche modo, che senso ha parlare di cronaca nel momento in cui la cronaca ci pervade? Nel momento in cui il cronista è chi vive il fatto, il ruolo del cronista cambia. E questo cambiamento in qualche modo è il cambiamento che stanno e dovranno affrontare i giornalisti e gli organi di informazione in un contesto in cui il senso stesso della parola quotidiano perde di significato, perché noi non abbiamo più dei quotidiani, abbiamo degli istantanei. Certo, però questo dal punto di vista dei media, cioè se sono pronti i media a questa rivoluzione, ma il pubblico, è pronto il pubblico? Il pubblico ritengo sia sempre più pronto di quanto non si voglia pensare. Il pubblico spesso viene disegnato come un pubblico da tutelare, come un pubblico da proteggere, come un pubblico che in qualche modo va inserito in un mare di bambagia. Io ritengo che il pubblico sia ancora in grado di ragionare, il pubblico sia ancora in grado di riflettere, il pubblico sia ancora in grado di capire e decidere cosa è informazione e da cosa non lo è. Allora Daniela, secondo te sono stato bravo, sono stato cattivo, si è capito che la penso in un certo modo? Sei stato veramente moderato, devo dirlo. Posso sfogarmi adesso? No. Ho una piccola provocazione da fare al professore. Io sull'argomento ho una domanda da fare al professore. Prego. Ho letto qualche giorno fa una notizia per la quale su YouTube in Francia potranno essere pubblicati solo i video approvati fatti da giornalisti. Questa non le sembra un ritorno al passato, una chiusura della libertà? Questa mi sembra quella che negli anni dell'immediato dopoguerra era la censura in Italia. Però la stanno facendo in Francia, Bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome. Se su YouTube possono pubblicare soltanto i giornalisti, YouTube sta censurando tutti quelli che giornalisti non sono. Esatto. E attenzione, perché noi abbiamo riportato per anni esempi di libertà dell'informazione su internet, facendo per esempio riferimento alla guerra. Qualche anno fa si parlava di Google come il contraltare al Microsoft. Google in quanto strumento di libertà dell'informazione, ma attenzione, perché è Google che decide cosa si vede e cosa non si vede. O gli stati che dicono a Google cosa far vedere e cosa non far vedere. O gli stati che insieme a Google decidono cosa far vedere e cosa non far vedere. Ci sono tante alternative a Google, basta trovarle. Basta trovarle, questo è un problema grosso, perché in questo sì bisogna definire un modello di garanzie per gli utenti della rete. Google sta diventando un monopolio, sta diventando un monopolio a mio giudizio molto più pericoloso di quanto non lo sia Microsoft, perché Microsoft agisce sui processi, sulle informazioni software, e Google agisce su ciò che la gente sa. E Google in qualche modo, c'è un bel video in rete, molto ovviamente, molto eccessivo per certi versi, che si chiama The Google Master Plan, dove vengono descritti i rischi che si corrono in una società guidata da Google. Ma sostanzialmente il vero problema è questo, ne faceva accenno anche lei prima, con così tanta informazione diventa fondamentale il ruolo di chi questa informazione la veicola e la fa trovare. Google in questo momento la veicola e la fa trovare. Non sono d'accordo su questo, non è Google, sono i SEO, ossia le persone che come me trovano gli strumenti per far salire un sito sui motori di ricerca. Sì, diciamo che in qualche modo... Dipende dal lavoro dei SEO in questo caso, non è tanto, cioè perché un sito sta in prima pagina di Google? Un sito sta in prima pagina. Se Google lavora bene, perché il sito è ben fatto. Se i SEO lavorano bene, perché è stato bravo il SEO. Esatto. Il rischio è questo. Il rischio è che le negative informazioni salgano perché c'è dietro un bravo SEO. Sì, ma questo ancora una volta non ci riporta al discorso che facevamo prima. La tecnologia non è intrinsecamente buona o cattiva. La tecnologia è tecnologia. Stiamo parlando di Google, del potere che Google ha di scegliere le informazioni per noi. Non è Google a sceglierle, sono i ma tecnici. I SEO sono sostanzialmente strumenti nelle mani di Google, perché nel momento in cui Google cambia gli algoritmi, i migliori SEO sono assolutamente... Si virà nell'eterna diatriba tra i SEO che cercano di buggerare Google e Google che cerca di buggerare i SEO. Ma questa è una cosa buona, perché fa vivere i Google, fa vivere i SEO. Certo. Posso tornare a parlare di stampa tradizionale? Scusaci Antonio, sì, ho visto che vi siete infervorati. Benissimo, questa più che un'intervista era un dibattito. I nostri giornali, i nostri mainstream, hanno pubblicato notizia all'inizio di febbraio proprio a proposito di Google News, che è questo servizio di aggregazione, no, delle notizie dei principali giornali mondiali, che permette di costruire una specie di rassegna stampa personalizzata senza neanche uscire di casa. I titoli recitavano più o meno tutti così: altolà di Bruxelles a Google News, Bruxelles stoppa Google News e così via, lasciando intendere che le autorità europee fossero intenzionate a limitare questo servizio. Però solo poi leggendo gli articoli, che è una cosa che fanno in pochi, si capiva che lo stop proveniva non dalle istituzioni europee ma da una corte belga, riguardava giornali belgi di cui io personalmente posso fare a meno, tipo Le Soir, Noiseblatt, questa roba qua. Insomma, voglio essere malizioso, non sarà mica stato un tentativo di articolo ingannevole con precisi fini di difesa corporativa rispetto al nuovo che avanza. Ancora una volta, Paolini, io ritengo che lei dia alla stampa un valore, un'intelligenza predittiva maggiore a quella che la stampa ha. Io ritengo molto più banalmente che sia stato un esempio di cattiva informazione. Allora, noi ringraziamo il professor Epifani per il suo prezioso intervento. Abbiamo anche sviscerato alcune delle cose che c'erano rimaste qui un po' nel gozzo, che volevamo tirare fuori. Vedo Daniela che è soddisfatta, quindi possiamo chiudere questo segmento e dopo un brano musicale passeremo alle chicche. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. I love to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. I love to go out fishing in a river or a creek, doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms around you, the charms around you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. So that I can hardly speak, eyes I see when we're out together dancing cheek to cheek, out together dancing cheek to cheek. Il meglio di te lo ritrovi su Radio Imago. Allora, prima di passare alle chicche, o meglio la chicca, dobbiamo essere brevi, Daniela, perché come al solito siamo avanti con i tempi. Mi dispiace che non siamo riusciti a far intervenire in trasmissione per motivi tecnici il professor Antonio Sofi. E spero magari che potremo coinvolgerlo in una futura trasmissione, giusto? Certo. Ma io conosco Antonio e sarà felicissimo di essere coinvolto. Quello che vorrei far notare, vi rubo soltanto 10 secondi, è questo. Si parlava prima di media e nuovi media. Io sono stato in diverse radio, ho visto la cura o la noncuranza con la quale si fanno le cose e in qualche modo il livello di tensione che c'era dall'altra parte della regia nel momento in cui non si riusciva a parlare con Antonio Sofi è un testimone, forse il miglior testimone, di come in questi nuovi esperimenti le persone che questi esperimenti li compiono credano in quello che fanno molto di più di quanto non ci credono normalmente in una radio mainstream, diciamo così, e questo non può che essere la migliore prova che la vera informazione comunque va avanti. Penso che questa cosa ci lusinga tantissimo e la ringraziamo di queste grazie parole. Grazie a voi. Beh, c'è un jingle di Radio Mago che parla abbastanza esplicitamente di passione come motore della radio e quella sicuramente oggi l'abbiamo vista. Allora, Daniela, che chicca ci hai preparato oggi? Allora, lavoro al contrario, io la settimana scorsa abbiamo parlato di cinema e oggi io vi parlo di due chicche del cinema. Sarò brevissima, guarda, per gli amanti del cinema o dei serial, della televisione, di tutto ciò che ci passa alla televisione selezionato, c'è un nuovo servizio della Ricky Records TV. Che cos'è, mi chiederai? Non mi guardare in questa... No, la cosa che mi preoccupa sono sempre questi link che sono difficilissimi da dire per radio. Per fortuna c'è il blog. Abbiamo di il nostro Proxima. Blog dove noi segnaliamo a fine rubrica tutte le chicche e tutti i link che abbiamo citato durante la rubrica. Okay. Quindi nessun problema per questo. Questo servizio è bellissimo perché se tu ti dimentichi, sei fuori, ti dimentichi di aver acceso il videoregistratore perché ci tenevi a registrarti qualcosa, questo servizio cosa fa? Lo registra per te. Cioè, arriva un signore, ti entra in casa col grimardello e no, tu da qualunque postazione internet entri in questo sito, decidi, hai un palinsesto, scegli la rubrica che il programma che vuoi farti registrare, paghi. Nah. Sì, paghi. E decidi con che supporto puoi usufruirlo. CD, videocassetta o download. Caruccio. Sì, eh? Sì. E l'altro? L'altro è filmincasa.it. Io vado solo, cioè cerco di promuovere i siti italiani perché noi abbiamo tanta creatività e bisogna tirarla fuori. E poi le cose belle la stampa non ne parla. No, ne parliamo noi. Giusto parlarne noi. Film in casa è una possibilità di abbonamento e ricevi i DVD in casa, una specie di noleggio di DVD. Quindi hai abbonamenti mensili, abbonamenti trimestrali, tu scegli i DVD che vuoi, ti arrivano con un pacchetto postale, li guardi e poi li rispedisci. Ma questa è una cosa un po' 1.0 come applicazione, però guarda, attenzione, fatta bene. Il 2.0 sono tutte in fase alfa, io volevo proporre qualcosa di 2.0, ma per il momento andiamo avanti con la 1.0 che è fidata, collaudata e funziona. Va bene, facciamole maturare. Bene, a questo punto io credo che potremmo dare la parola al nostro chitarrista, al nostro sitarista, al Guru Meditation di turno. Al nostro Guru Meditation. Bene, dunque, il guru di oggi è un signore che ho incontrato naturalmente al Barcamp, che si chiama Emiliano Germani, che è un esperto del rapporto tra blog e comunicazione politica. Cioè, lui mi ha raccontato bene o male che quello che sta succedendo, soprattutto negli Stati Uniti, circa l'impatto che i blog hanno sulle campagne elettorali. È un tema che abbiamo affrontato col giusto disimpegno, col giusto disincanto, senza farci troppe illusioni, ma che, come dire, ha dato qualche spunto interessante. Sentiamolo. Guru Meditation. Guru Meditation. Campo di Roma, siamo con Emiliano Germani, che poco fa ci ha veramente interessato con una presentazione sui limiti e le prospettive nel rapporto tra politica e nuovi media. Questo più o meno il tema che hai trattato. Puoi ricapitolarci secondo te quali sono i limiti e le prospettive, il succo della sua presentazione. Le prospettive, quelle teoriche, che i new media possano favorire la democrazia. I dubbi sono che ciò realmente avvenga, innanzitutto perché sembra che il sistema politico non sia interessato all'utilizzo dei new media, che si dice che aumentano la partecipazione, ma veramente i politici e gli attori politici come i partiti sono interessati a una prospettiva del genere in Italia? È una riflessione su cui bisogna operare. E le prospettive sono che in futuro, magari non nel futuro breve, forse nel medio-lungo periodo, ciò in parte possa accadere. Accadrà se verranno superati i limiti tecnologici, la possibilità di accesso alla rete, quindi se più persone avranno accesso alla rete e alle tecnologie che la rete rende possibile utilizzare. Accadrà se anche ci si interrogerà su come organizzare contenuti controllati. Questo è importante soprattutto nel mondo della politica. Pensiamo al fenomeno del blog journalism, dove nessuno controlla la verità di ciò che viene detto sui blog, e accadrà anche se la legislazione evolverà per facilitare la partecipazione politica attraverso i nuovi media. Si ragionava in aula ad esempio al problema della raccolta di finanziamenti, come possono essere raccolti i finanziamenti attraverso un sito internet, chi vigila sulla raccolta, chi vigila sull'impiego? Sono le domande del futuro. Ecco, io non l'ho detto all'inizio, tu sei un giornalista freelance, si potrebbe dire, però della nuova leva, perché esiste ancora tutta una leva di giornalisti freelance che non sanno neanche cosa sia internet, corretto? Io ho cominciato a fare il giornalista con una web TV, quindi sono nato come giornalista non freelance, ma un giornalista da internet. Oggi faccio il giornalismo da freelance, non è la mia professione ufficiale perché non ci si vive. Però è una professione interessante, perché oggi con una telecamerina si può fare il video reporter, con un affarino come quello che hai tu si può fare il radio reporter, e il giornalista freelance non vive con ciò che gli ritorna economicamente, ma fa un lavoro più interessante di quello del giornalista tradizionale, perché è più libero e se ha creatività può imparare tante cose e fare imparare tante cose ai suoi lettori. Ecco, proprio di un paio di giorni fa la statistica di Nielsen Net Ratings, che dice che negli Stati Uniti si è triplicato il numero di persone che leggono notizie sui blog piuttosto che sui giornali, anche se tu poi nella tua presentazione hai precisato che secondo un'altra notizia solo il 30% delle cose che vengono lette sui blog vengono effettivamente credute. Secondo te perché? Perché non ci si fida dell'altro. In un mondo in cui tutti hanno qualcosa da dire, si dubita molto spesso di ciò che diciamo noi, e come ci si fa a fidare di ciò che dicono gli altri? Poi facevo accenno al problema delle regole famose del newsmaking. Il giornalismo, nato come una vera e propria arte, una vera e propria scienza negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso, aveva e ha delle regole ben precise: il controllo, l'affidabilità delle fonti, la supervisione editoriale. Chi fa blog journalism a queste regole non fa riferimento, non c'è un editore, non c'è un controllo, non c'è il tempo e la possibilità economica di accedere e controllare le fonti, e questo è un grosso problema. Forse è un bene che ci siano dei dubbi da parte dei lettori, che ci siano tanti lettori che non si affidano alle notizie del giornalismo blog. Spero che in futuro, se ci sarà una professionalizzazione del sistema, se ci saranno delle regole, penso anche a livello legislativo, per regolare questa nuova professione, penso che sarà una nuova professione, le cose cambieranno. Ecco, gli Stati Uniti dal punto di vista della credibilità o in generale nel rispetto dell'autorità, nel rispetto della professionalità, si muovono su un registro completamente diverso, è questo che va forse sottolineato. Cioè, quando un lettore americano legge il New York Times o più semplicemente USA Today, News of the World, insomma anche giornali più popolari, meno di, diciamo così, da intellettuali, il lettore crede quasi istintivamente nel ruolo di mediatore del giornalista. Invece in Italia è completamente diverso. Quando leggiamo un giornale c'è una consapevolezza della faziosità dei nostri giornali tale che fa sì che in realtà poi alla fine il giornale si compra con lo stesso spirito con cui si compra un quotidiano sportivo, sapendo che farà in qualche modo il tifo per qualcuno, quantomeno per la squadra del cuore del bacino d'utenza. E allora non pensi che in Italia il citizen journalism possa avere uno sviluppo di diverso rispetto a quello che accade nel mondo anglosassone, proprio per il fatto che da noi, non esistendo editori puri, c'è questa naturale diffidenza anche verso la carta stampata, anche verso il giornalismo radiotelevisivo? fra le cose che faccio c'è anche quella di insegnare all'università, e gli studenti di solito racconto un po' di storia del giornalismo. La storia del giornalismo negli Stati Uniti è diversa da quella italiana. Nel giornalismo statunitense c'è il mito del watchdog, il giornalismo cane da guardia che fa le pulci al potere, ma che soprattutto giornalismo di inchiesta, giornalismo d'assalto. Il giornalismo italiano ha una tradizione di divulgazione, ha anche una tradizione di supporto, affiancamento alle istituzioni e ai partiti politici. Non ci si può aspettare un atteggiamento diverso da quello che tu giustamente descrivevi, forse anche perché il pubblico ha quel che vuole. Eh sì, temo proprio di sì. Per un attimo il rapporto tra politica e nuovi media, da podcaster una delle prime cose che ho cercato di fare nell'anno pionieristico del podcasting, nel primo anno di vita, che potremmo dire che è stato il 2005, beh, è iniziato l'ottobre 2004, ma poi è stato il 2005 l'anno quasi della maturazione di questa tecnologia, di questo medium, cercai addirittura di convincere qualche politico in vista delle elezioni politiche a trasformare in podcast i propri, per esempio, comizi, le proprie apparizioni pubbliche, un po' quello che sta facendo Sarkozy adesso in Francia in vista delle presidenziali del 2007. E tutto quello che poi invece ne è sortito è, per esempio, la web radio di Veltroni che non coglie nessuno dei vantaggi del podcasting, perché si è limitato a fare un mix di musica che si rivolge bene o male al suo range di età, cerca di identificarsi in qualche modo nel suo elettore, con i suoi sogni, con le sue speranze, ma non c'è minimamente il contatto diretto, e soprattutto non c'è quel tipico rapporto di fiducia che dovrebbe crearsi tra chi parla e chi ascolta. Il giorno dopo le elezioni politiche, l'80-90% dei siti internet aperti in occasione della competizione elettorale ha chiuso. Questo ci fa riflettere sul fatto che i nuovi media sono utilizzati come gadget dalla comunicazione politica italiana, più che veri e propri strumenti. Chi lo fa, e lo fa con più impegno, tu citavi il caso di Veltroni, lo fa anche perché ci crede, ma lo fa perché il suo elettorato ci crede. Il fatto che lo faccia bene poi è tutto un altro discorso. Si spera che in futuro ci sia maggiore consapevolezza ed efficacia nell'uso. Ecco, a me invece ha stupito, anzi per la verità non mi ha stupito per niente, mi ha colpito, diciamo, quello che ha fatto Radio Radicale, che un bel giorno ha deciso che tutta la sua programmazione, tutto il suo archivio potesse essere non soltanto fruibile in streaming attraverso il sito, come è accaduto per tanto tempo, ma addirittura in podcasting, cioè è possibile addirittura effettuare il download di una parte di archivio che poi sta crescendo sempre di più, proprio perché ha un tempo tecnico la realizzazione dell'archivio digitale, dello sterminato archivio di Radio Radicale, e in questo modo adesso chiunque sia dotato del lettore MP3 può scaricare qualsiasi congresso di partito, seduta parlamentare, presentazione di libro, eccetera. Si sta creando qualcosa che io non so perché, ma ho la sensazione che prima o poi tutti dovranno fare. Dovrà fare, che so, la Feltrinelli quando presenta i suoi libri, un partito quando fa i suoi congressi, cioè quello che ora viene visto come una grande innovazione, presto potrebbe addirittura darsi per scontato, cioè che una istituzione come può essere un partito decide di creare un canale che è il più semplice, il più ovvio, il più naturale per diffondere ciò che per il momento è limitato a chi può partecipare direttamente. All'inizio parlavi di problemi tecnici, ci sono problemi economici e legislativi. L'azione di Radio Radicale viene dopo una lunga riflessione sulla Creative Commons, come distribuire e come rendere fruibili i contenuti che vengono diffusi online. C'è una convenienza, Radio Radicale l'ha trovata perché ha delle finalità particolari. Tu citavi altri soggetti che hanno invece l'interesse a far fruttare in altro modo i contenuti che hanno e quindi a vigilare strettamente sulla loro diffusione. Quando il dibattito sull'impiego e le soluzioni sull'impiego economico fruttuoso e sulle possibilità legislative di questo impiego sarà più avanzato, forse magari avremo soluzioni diverse. Nella parte finale della tua presentazione ci hai fatto vedere delle cose, degli usi particolarmente evoluti di internet a fini politici. Abbiamo visto le campagne sui wiki, abbiamo visto questa iniziativa tutta britannica che si chiama theyworkforyou.com. Spiegaci bene di che cosa si tratta, perché mi ha molto incuriosito. È un'iniziativa bellissima perché, come dicevo durante la presentazione, si vanno a fare le pulci agli uomini politici e ai partiti politici. Cosa dicono, quante cose dicono, si interessano dei temi principali della campagna, danno letta ai loro ascoltatori e soprattutto quanti soldi raccolgono e come li spendono. È il principio proprio del cane da guardia, è il principio dello stare appresso a ciò che fanno i politici. Si spera, ed erano le intenzioni del sito, non so adesso come evolveranno, però si spera in un modo assolutamente neutrale, cioè senza intenti di parte, cioè non fare le pulci al politico per denigrarlo, ma perché questo rispetti i principi basilari della democrazia. Forse già nelle prossime competizioni elettorali qualcosa di simile potrebbe accadere anche in Italia. Ecco, per chiudere, a parte la solita considerazione del chi controlla i controllori, che la lascio alla riflessione libera di chi ci sta ascoltando, queste iniziative nascono o per volontà di un gruppo di persone accomunate in un obiettivo, penso appunto alle campagne sui wiki, oppure molto più spesso, ecco, in Italia quello che succede è che nascono per iniziative di singoli individui. Pensiamo al personaggio Pietro Ricca, il famoso insultatore di Berlusconi, che poi ha costruito su questo episodio una qualche identificazione, una qualche forma di credibilità, e ha realizzato un documentario che naturalmente sarà parziale, possiamo dire quello che vogliamo, che io ho visto l'altro giorno, scaricato da Arco Iris, e in cui per la prima volta ho sentito per un paio d'ore parlare gli italiani sulle motivazioni che li hanno spinti a votare Prodi in un caso, Berlusconi nell'altro caso. Cioè, la prima volta che io per due ore ho sentito una sequenza di giustificazioni, di spiegazioni del perché gli italiani hanno votato, che è un'informazione che noi diamo quasi per scontata, ma in realtà rimangono nelle stanze segrete degli istituti di sondaggio. Cioè, difficilmente si dà così tanto spazio alla politica nel momento, diciamo così, più supremo, nel momento del voto. Perché abbiamo dovuto aspettare un Pietro Ricca per fare un documentario del genere e invece ci siamo baloccati con lunghi dibattiti porte a porte, Ballarò, anno zero, eccetera, senza cavare un ragno dal buco? È difficile rispondere a una domanda del genere. Certi fenomeni possono essere interpretati solo sul lungo periodo. Forse in questo caso il video va a collocarsi in un momento in cui c'è voglia di spontaneità, c'è voglia di vedere cose autoprodotte, c'è voglia di vedere cose, come si direbbe a Roma, un po' più caserecce e ritenute anche per questo più affidabili, più libere. Non so quanto potrà crescere il fenomeno nel futuro, sono curioso anch'io. Ti ringrazio, Emiliano. Grazie. Allora, mi è piaciuto questo guru. Questi guru. Sono dei personaggi che dicono cose che, insomma, di solito non hanno il tempo di dirle, no? Fino a questo punto. E io cerco di tirarle fuori. Sei stato bravissimo con questi contributi audio. Grazie. No, quella fu una giornata abbastanza faticosa. Giravo con 30 cuffie, eccetera. Mi vedevano, vabbè. Allora, è stata anche questa una puntata piena di emozioni, piena di cose interessanti. Chiamiamo le cose come stanno, di problemi tecnici. Di problemi tecnici, no, poi insomma, ripeto, adesso poi ce la risentiremo e vedremo se abbiamo fatto qualche passo avanti, oppure se stiamo facendo come il gambero. No, si migliora sempre, su. Allora, la prossima settimana parleremo sicuramente, ci sarà anche qui una parte potremmo definire monografico di approfondimento che non voglio anticipare, non perché ce l'ho in mente e non la voglio rivelare, ma semplicemente perché ancora non so esattamente di che cosa parleremo e non so quali ospiti interverranno. Ci saranno naturalmente ancora chicche, si parlerà ancora una volta delle applicazioni e dei contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. Grazie ancora al professor Epifani, che ha avuto la bontà di rimanere qua fino in fondo, perché è curioso di vedere, di vedere se sopravviviamo soprattutto. E un saluto a Daniela. Un saluto a tutti e a giovedì prossimo. A giovedì. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Sono le 19:57 minuti.